Jamaline, just unpack the scene, my love, love, love, but please don't go, I love you so, my love. E tenendo in sottofondo gli Alt J, quindi brava Adelina per questa playlist. Grazie, di ti è oggi. Piaciuta? Sì, mi sta piacendo molto, ma fatecelo sapere anche voi al 333-180-94-94. Stanno arrivando molti messaggi che appunto più persone dicono siamo veramente abbattuti da questa situazione. Quindi continuiamo a dar voce, come diamo voce a chi è in piazza in questo momento. Siamo qui con Emanuele Cali, Panza Casadei. Voi lavorate comunque nel settore, specificamente cosa fate? Io sono appena uscito da una scuola di teatro qua a Bologna, all'Alessandra Galante Garrone. Adesso vorrei mettermi nel settore, ma non si può lavorare, i teatri sono chiusi, quindi sono disoccupato. Io mi sono diplomata prima di lui e quindi sono allievo attore e anch'io sto provando a inserirmi. Vorrei dare la colpa al Covid, ma comunque non è, è un problema che già esiste da tempo, quello dell'inserimento all'infuori delle capacità del singolo. Certamente, e quindi adesso voi siete qui per chiedere cosa effettivamente? La situazione è quella che è, quindi obiettivamente sperare in una riapertura totale dei teatri è un'utopia oggettivamente, però andare in quella direzione, almeno qualche gesto, qualche polo provvedimento che vada in quella direzione, fare un tentativo di riapertura con molti più controlli di prima, qualcosa del genere, perché io ho 22 anni, sono ancora giovane e ho la fortuna di avere dei genitori che mi possono aiutare e in modo che io non possa morire di fame, ma c'è gente che questo campa di questo lavoro da anni, è un lavoro in cui non hai mai un soldo da parte e in questo momento sta facendo la fame, quindi qualcosina bisogna farla. Certo, quindi voi parlate non di aiuti economici, ma principalmente di possibilità di ripartire. Sì, perché gli aiuti economici ovviamente fanno piacere, buono, riusciamo a campare, sì, però noi non siamo persone che vogliono solo i soldi, vorremmo vivere facendo, cioè non vogliamo fare i mantenuti dallo Stato, vogliamo vivere facendo arte, facendo quello che amiamo. La cosa triste è che uno sta chiedendo il minimo indispensabile, il minimo sindacabile, il minimo di dignità. Poi si vorrebbe molto di più del minimo sindacabile, ma quando ci si ritrova a chiedere un minimo di riapertura, un minimo di attenzione e un, diciamo, un aiuto che ci permetta di non vivere solo di qualche ingaggio fortunato una volta ogni tot, vuol dire che la situazione è un attimo più grave di quello che sembra. Avete fiducia nel nuovo governo che possa cambiare qualcosa oppure pensate che rimarrà tutto immobile? Sinceramente non nutro molta fiducia, spero di sbagliarmi, però non mi sembra il tipo di governo che è intenzionato a finanziare l'arte in questo momento, anche giustamente hanno altre priorità, però noi vorremmo essere tra quelle, ecco, quindi non mi sembra che sia un governo che ci possa aiutare, però spero, ripeto, di sbagliarmi. Il nostro è un paese che ormai da molto tempo non dà importanza a niente che sia umanistico, che sia artistico, che non dia un profitto diretto. E il nostro non è un campo che dà neanche lontanamente un profitto diretto. E di conseguenza vengono lasciate indietro le cose che sono considerate essenziali economicamente. Non oso immaginare noi che siamo proprio nella parte più bassa delle priorità. Ma voi pensate che all'estero ci sia qualche esempio magari da seguire come modello? Allora, ovviamente uno deve guardare al proprio paese, non guardare sempre fuori. Non dico che sia tutto perfetto, non è che se domani io vado in Francia divento chissà chi, non sto dicendo questo, dico semplicemente che in un paese in cui perlomeno esiste un fondo pensionistico vero e proprio per un lavoratore dello spettacolo e che non debba vivere a 80 anni ancora sperando di ricordarsi le battute, già quello è qualcosa, in Francia questo c'è. In Francia ci sono degli aiuti, dei sussidi, cioè è tutto, vengono trattati non come wow attori, non gli danno mille fondi come magari avviene anche in Inghilterra, che un attore di certi teatri può guadagnare anche più di un attore di cinema in campi, ovviamente è un esempio un po' così, però capitemi. Francia almeno vengono trattati come lavoratori normali, quindi se c'è un periodo in cui non riesci a lavorare, è dimostrato che però hai lavorato questo periodo e questo periodo, vuol dire che tu sei davvero un lavoratore dello spettacolo e quindi ti spettano questi soldi. Qui non esiste questa cosa. Sei un simpatico artistoide, oh carino, anch'io faccio teatro il pomeriggio. Non è questo, è un lavoro, come un altro. Quindi una mancanza di rispetto proprio quasi a livello culturale, secondo voi, per la categoria? Ma sì, o sei l'attore famoso, che per carità ben venga che uno se più che bravo venga riconosciuto, però non esistono solo i grandi divi o i poeti maledetti, cioè ci sono anche quelli che lo fanno di lavoro. Non dico non ci sia un'ambizione, ma almeno che io non debba chiedere i soldi a mia madre anche tra 10-20 anni. Ed è così che abbiamo raggiunto la piazza, appunto Piazza San Giuseppe, dietro all'Arena del Sole, dove sta avvenendo il presidio, manifestazione dei lavoratori e lavoratrici dello spettacolo e della cultura. Un anno senza eventi, un anno senza reddito, insomma queste voci si sentono, si sente la rabbia comunque, sente, nella voce. Sì, si sente molta rabbia, e come è giusto che sia, nel senso che un anno è tantissimo, fosse finita qua uno potrebbe anche mettersela da parte, ma invece no, perché il peggio deve ancora arrivare, sicuramente il peggio deve ancora arrivare, perché appunto dopo un anno di fermo la ripartenza è un miraggio, non si sa in che condizioni avverrà questa ripartenza, e come dicevano anche le voci delle intervistate e degli intervistati, appunto questa gente sta lavorando, nel senso uno dei tanti problemi che si ricollegano al discorso del lavoro artistico è appunto avere l'amico artista che sì, vabbè, te la canti, te la suoni, invece no, il lavoro artistico è un lavoro immateriale, ma è un lavoro essenziale anche all'interno della nostra società, perché c'è una macchina, anche se questa espressione forse non è la migliore per descrivere tutto quell'apparato che lavora all'interno di questo settore, perché appunto non sono solo gli artisti, ma sono anche tutte quelle persone che stanno dietro alla scena, mettiamo fuori scena o sotto al palco, nel senso che appunto è un settore che dà tantissimo lavoro, e spesso questo, soprattutto in questo anno, non si è data voce anche appunto, a parte ad esempio magari attori, musicisti, cantanti, ma su un palco quando si fa un live c'è dietro un lavoro di centinaia di persone che spesso non viene visto, ma anche ad esempio dare lavoro ad esempio agli uffici stampa, ai fotografi e poi alle persone che fisicamente montano e smontano i palchi, a chi guida ad esempio le macchine, i camioncini, i furgoni con tutta l'attrezzatura, chi ad esempio pulisce la location, cioè sono veramente centinaia di lavori che stanno dietro a ad esempio gli eventi live, oltre ad esempio a tutta la parte organizzativa, oltre agli artisti stessi. Però fa rabbia, e questo in realtà ovviamente va anche al di là di questa questione pandemica, quando appunto il lavoro artistico spesso non viene considerato tale, quando appunto dietro anche a uno spettacolo teatrale, a un programma radiofonico, un programma televisivo, una canzone o una base musicale, c'è dietro un lavoro di, oltre a uno studio di anni, c'è dietro tanta gavetta e tanto lavoro. Certo, a me viene un po' di tristezza, perché sicuramente io auspico ad entrare in questo mondo lavorativo, ma con tutta l'ansia del caso, nel senso che appunto abbiamo sentito la voce di giovanissimi che appunto sono spaventati un po' ad entrare all'interno di questo settore. La ragazza prima diceva mi piacerebbe dare la colpa al Covid, però ha ragione, perché il Covid ha semplicemente esasperato una situazione che già prima cadeva a pezzi, nel senso che la precarietà nel mondo artistico è altissima in Italia, e l'arte viene appunto sempre considerata un po', non so come dire, fatta da gente perché gli piace farlo. Certo, questa gente gli piace pure, però sta lavorando e quindi ha bisogno, come lavoratrici, come lavoratori, di una serie di diritti che gli permettano di lavorare nella totale sicurezza. Visto che i doveri in realtà li abbiamo anche noi comunque nel mondo artistico, avendo dei doveri, vorremmo anche appunto... Sono garanzie che permettono alla gente di vivere una vita serena e senza appunto far fatica ad arrivare a fine mese o a sfamarsi o pagare l'affitto, eccetera. E appunto poi la cosa più importante è che va rivendicato il fatto che questa lotta ci riguarda tutti, perché tutti, insomma, o almeno la maggior parte di persone che sono in ascolto, ci piace ascoltare la radio, ci piace andare ai concerti, ci manca andare a teatro, ci manca andare al cinema, e per poter fare tutte queste cose qua è giusto che le persone che in primis, insomma, sono i protagonisti sulla scena, hanno bisogno di avere dei diritti. Certo, quindi speriamo che anche da questa mobilitazione la rabbia si senta e venga ascoltata, e che da questa poi si costruisca magari un piccolo passo verso delle garanzie, verso avere qualcosa. Già una certezza sarebbe secondo me tanto. E mentre aspettiamo una certezza e rimanendo collegati appunto con la Piazza San Giuseppe, io lo ripeto, dietro l'Arena del Sole, mi piace dirlo che dietro l'Arena del Sole ci ascoltiamo 99 Luftballons. Sentite com'è bello sentire il pubblico che acclama durante un pezzo. Sì. E cantare canta, tutti oddio, insieme. Adesso ci scendono le lacrimucce. Vuoi cantare anche tu? No, il tedesco non lo so cantare. Senti che bello, quanto mi manca questo momento. E per ora diciamo che non ci resta che ascoltare, piangere, quello sempre comunque, ma anche ascoltare e guardare video che appunto ritraggono concerti live. Come faremo noi sabato sera. Noi appunto faremo questa visione in casa con il... Una visione collettiva chiaramente nel rispetto delle norme di sicurezza. Pochi, assolutamente. Certo. Però solo congiunte appunto, congiunti con appunto proiettore, ma saranno 130, quindi dobbiamo ancora capire quale esattamente vorremmo seguire, ma nel caso in cucina ci sarà un concerto, in bagno un altro, nelle stanze un'altra in bagno. Eh sì, perché sono 130, sono tanti. Eh sì, 130 sono davvero tanti, mettere, anche per una casa, esatto, con tante stanze. E mettere d'accordo tutti sarà molto difficile, però sarà un modo per passare un sabato sera diverso dagli altri e finalmente con un po' di musica fruite in un modo in cui forse non siamo abituati, però è un primo passo. Ma abbiamo ancora un collegamento dalla piazza che andiamo ad ascoltare. Voi avete speranza nel nuovo governo che le cose possano cambiare o pensate che i presupposti non siano buoni? Noi speriamo che i presupposti siano buoni, o almeno giusto ieri c'è stato un incontro col tavolo del MIBACT e sembrerebbe che siano interessati, insomma si stanno accorgendo dei tumulti che ci sono in giro, è ancora presto per dirlo perché è troppo giovane questo governo. Quello che a noi interessa però è che sia un governo l'altro che siano una santa mossa per quanto riguarda il mondo della cultura dello spettacolo, che è il fiore all'occhiello del loro paese. Non siamo di serie B, siamo cittadini come gli altri, vogliamo la nostra dignità. E giustamente vogliono la loro dignità, vogliamo la nostra dignità anche appunto per questo settore, che chiede delle risposte, chiede diciamo delle azioni concrete. Ma a proposito di musica, noi all'interno del nostro Fujiko Factory da mesi siamo felici di rivendicare che la musica continua ad esistere, escono brani nuovi, escono dischi nuovi, stiamo insomma aspettando anche Sanremo con tutto quello che comporterà, che quest'anno appunto saranno 26 i big in gara. Nascono nuovi gruppi, ma si sciolgono anche dei gruppi. Esatto, perché siamo arrivati al triste momento della puntata in cui comunichiamo, ma probabilmente molti già lo sapete. Esatto, già sapranno la separazione dei Daft Punk dopo 28 anni. Infatti loro erano il duo simbolo della musica elettronica transalpina, il cosiddetto French Touch. Bravissima. No, no, perfetto. Che ha conquistato il mondo con brani diventati ormai classici ai quattro angoli del pianeta. Tutti questi nomi dilli tu. Allora, i nomi in questione sono Thomas Bangalter e Guy Manel de Homem Christo. Insieme dal 1993 hanno annunciato la fine della loro collaborazione, diciamo con un video tanto sobrio ma al tempo stesso bello ed enigmatico, che si chiama appunto Epilogo, postato su YouTube. Tra l'altro il video dura 8 minuti, io l'ho visto ieri sera e aveva già 3 milioni di visualizzazioni. Sì, in 6 ore. I Daft Punk comunque hanno segnato una generazione, appunto, cioè 28 anni di carriera sicuramente non si dimenticano così in un attimo, e loro per diciamo salutare ci hanno lasciato questi 8 minuti di video molto bello, che io ho apprezzato lucrimeno. No, non è che non ho apprezzato, devo ammettere che inizialmente non l'ho molto capito. Noi ve lo spieghiamo brevemente, ma poi ovviamente andate anche voi ad aumentare i 3 milioni di visualizzazioni. Appunto, in questo video di 8 minuti si vedono i due artisti coperti dalle loro proverbiali maschere, anche perché ricordiamo che appunto sono state una delle band simbolo anche per essere mascherati, quindi esatto, anche questo un dettaglio importante. Quindi mascherati da robot che camminano in un deserto in stile Nevada, inizialmente procedono allo stesso passo, quindi un po' rappresenta il loro aver lavorato insieme per 28 anni fino a poi appunto uno dei due accelera il passo, restano separati per un po' fino a ritrovarsi di nuovo insieme faccia a faccia. Uno dei due, quello col casco argentato, si sfila la giacca in pelle con la scritta Daft Punk, si gira e il compagno innesca una bomba a orologeria attaccata sulla schiena, una sequenza che finisce con una spettacolare esplosione dove appunto seguono le date 1993-2021 e poi il finale in musica con oltre 2 minuti di coro Hold On, If Love Is The Answer You Are Home, tratto dal loro pezzo Touch, sulle immagini di uno spettacolare tramonto che tra l'altro è diciamo un leitmotiv dei Daft Punk, quindi secondo me una cifra ricorrente nel loro, e parla come mangia nei loro video musicali. Infatti una canzone, una delle ultime canzoni tra l'altro, Get Lucky, riprende appunto la band suonare con uno sfondo del tramonto alle spalle, e questo diciamo che secondo me ha un senso questo. Ma io epilogo devo dire finale, che in questo realtà video finale ha senso. Assolutamente, l'ho trovato un po' lento, quindi ho mandato, diciamo, però un po' avanti. Dopo 28 anni di carriera decidi di chiuderla qua, ci volevano 8 minuti di video. Beh, effettivamente secondo me potevano essere 8 ore, quindi tra le due c'è andata anche bene. Beh, ma se tu pensi che ad esempio mi viene in mente che questa pratica del finale come si chiamano queste, della carriera, ecco, degli artisti, è una pratica molto ricorrente in realtà nel mondo dell'arte. Se pensiamo alla Marina Abramovic e Ulay, che per separarsi hanno percorso l'intera muraglia cinese, sì, per poi lasciarsi quando si sono trovati. Quindi alla fine questi 8 minuti di Sì, Daft vabbè, Punk, effettivamente loro confronto, questo percorso è stato un percorso di mesi, invece qui appunto è racchiuso magari questo percorso di vita personale e appunto artistica racchiusi in 8 minuti che si concludono con un'esplosione. Però si parla già di una chiusura fake, nel senso che sono i tanti e tante le fan, i fan che pensano che questa in realtà non sia la vera fine dei Daft Punk, ma che appunto sia una sorta di trovata o comunque sicuramente una chiusura temporanea. Una chiusura come temporanea. Trovata non male, perché appunto in neanche 6 ore 3 milioni di visualizzazioni vuol dire che funziona come hanno cosa. Hanno letteralmente chiuso col botto, appunto. Airbotto, hanno fatto airbotto e lo facciamo anche noi sui 103.1 ascoltandoci Get Lucky. The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Dicendo che sentiamo il cuore a mille, sempre citando Calcutta. Dentro questa radio. Noi sentiamo il mar Mediterraneo dentro questa radio e con il nostro Fujiko Factory del martedì stiamo seguendo la manifestazione dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo e della cultura. I nostri hashtag di oggi sono un anno senza eventi, un anno senza reddito. Non abbiamo detto la parola chiave. La parola chiave di oggi è revolution. No, quella l'abbiamo già usata, però non lo so quale potrebbe essere la parola chiave di oggi. Lotta, una lotta che ci lotta. Riguarda, perché appunto stiamo raccontando sui 103.1 come imperativo, lotta. Lotta, lotta tu, lotto io, lottiamo noi, lottiamo tutti e tutte insieme, appunto, per dar voce a chi in questo momento voce non ce l'ha. Quindi si sta avvenendo in diverse piazze d'Italia questa manifestazione, una mobilitazione appunto per dar voce. Esatto, per dare voce a tutte queste lavoratrici e lavoratori che appunto in più di 20 piazze d'Italia oggi sono scese a gridare anche la loro rabbia, perché nelle nostre testimonianze live dalla piazza, grazie ai nostri, io ringrazierei comunque i nostri inviati speciali Alfo e Giulia, si è percepita molto questa rabbia e il nostro augurio è che da questa rabbia venga ascoltata in primis, che forse è la cosa più importante. Esatto, e da questa poi si parta con delle certezze. Ecco, prima dicevamo già avere una certezza sarebbe tanto, però mi sembra un buon punto di partenza. Un buon punto di partenza, soprattutto non vediamo l'ora di vivere questo. L'applauso finale dopo due ore di concerti, il grazie di chi appunto è salito sul palco e l'emozione, l'applauso di voler ringraziare. Io mi ricordo durante un concerto dei FASC, i FASC diciamo che inneggiano molto poi il pubblico a far casino, e loro dicevano: cioè, noi per questo applauso viviamo, quindi applaudite più che potete, fateci sentire che ci siete, fateci sentire che siete stati bene, che poi è la cosa più importante. Sì, io infatti sono curiosa di vedere cosa succederà sabato in occasione di questi 130 concerti live in streaming su Ultimo Concerto, perché io ho visto un live in quarantena, un live statunitense, perché c'era l'orchestra di Kamasi Washington, e Kamasi Washington, sassofonista statunitense, che ha fatto questo concerto in un'arena completamente vuota, e vedevi proprio la disperazione in faccia a questi musicisti, perché persi e vuoti, senza pubblico. Quindi chissà cosa succederà sabato, perché sicuramente sarà un evento senza precedenti, ma che sarà messo in scena veramente in una situazione molto particolare, quindi senza pubblico, senza pubblico dal vivo, che è questa la grande mancanza. Senza pubblico dal vivo, ma ci sarà pubblico dal proprio divano di casa. Non vorremmo essere lì, vorremmo essere fisicamente in questi 130 live club italiani, ma lo appunto assisteremo dai nostri divani, perché no, si cercherà magari di farlo anche in compagnia per quanto possibile, e ovviamente sempre cercando appunto di mantenere tutte le norme vigenti, ma appunto sarà un momento molto bello, e forse, perché no, un inizio di qualcosa, sperando che appunto anche questa gigantesca manifestazione su, insomma, in tutta Italia praticamente, nei club più famosi, possa essere insomma monito di qualcosa che possa cambiare. Giovedì faremo tutta una puntata di Fujiko Factory appunto a tema Ultimo Concerto. Domani torneremo sempre dalle 15 alle 17 con una puntata tutta Lucri e Yogi, dove però vi racconteremo anche dei duetti di Sanremo, parleremo un po' di Sanremo e come sempre faremo un po' di casino. Esatto, tra l'altro a proposito di casino, a me viene da ridere perché a me piace fare un po' di cacciara, no? Ai concerti di solito sono una persona molto pacata, molto composta, però ai concerti mi trasformo, perché appunto essere in una dimensione, una situazione in cui attorno a te ci sono davvero centinaia, migliaia di persone, esatto, che sono prese bene come te, e esatto, quindi chissà cosa succederà sul divano di casa. Sul divano di casa potremo pogare dalla, sì, dal no, divano. Saremo in realtà con le pantofole, il pigiamino, sedute composte, facendo silenzio, se no i vicini si arrabbiano. No, in realtà no, perché è vero. Secondo me la musica, anche così a distanza, se seguita nel modo giusto e, come ci dice comunque Calcutta, sentendo il cuore a mille, secondo me sarà comunque emozionante anche così, anche se appunto non sarebbe nel modo in cui vorremmo. Tra l'altro, prima di salutarvi e dar voce anche alla nostra fermata provvisoria del martedì, quindi dar voce a un artista emergente che ci parlerà della sua musica, vi vogliamo raccontare Sguardi al Femminile, due nuovi percorsi appunto proposti all'interno di Sguardi al Femminile, che è questa rassegna sostenuta dall'Ufficio Pari Opportunità, tutela delle differenze, che contrasta la violenza di genere, appunto data dal Comune di Bologna, per affrontare e trattare tematiche del vissuto femminile attraverso letture, scritture, ascolti, conversazioni, confronti, momenti laboratoriali, una parola difficilissima, approfondimenti e consigli di lettura e tanto altro. Due